Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale perché è l'organizzatore della quarta edizione del Rockin' Summer Fest. Lui è Dimitri Masotti, bentrovato. Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. Eccoci qua proprio per parlare di questo festival, ormai nasce come fest ma sono diventati 3 giorni, leggevo dal vostro sito. Di che cosa si tratta? Si tratta del nostro festival rock and roll, rockabilly, quindi cultura, musica e tutto quello che è l'America degli anni 50, quindi dallo swing al rock and roll, al rhythm and blues, musica per amanti del genere, ballerini, motociclisti e anche collezionisti di auto d'epoca, ecco. E il tutto appunto, come dicevamo, è nato da una giornata singola, quindi è nato come fest e poi è piaciuto, abbiamo avuto molta risposta dalla gente, dai ballerini, dalle persone, diciamo, da Reggio Emilia fino a Ravenna e dintorni, e adesso appunto ci stanno seguendo anche dall'estero, quindi continuiamo questa nostra impresa e cerchiamo di espanderci sui 3 giorni, 4, 5. Più sono meglio, Ma ci divertiamo. Infatti, anche più siamo, più ci divertiamo. Bello quello qua. Sempre. E quello che volevo chiederti è un po' le coordinate, quindi i giorni, il luogo e come iscriversi, come si partecipa. Allora, Rockin' Summer Fest è la quarta edizione e si terrà il 30 giugno, l'1 e il 2 luglio allo Junior Club di Rastignano, quindi Bologna. È un weekend? È un weekend, venerdì, sabato e domenica. Inizia il venerdì sera con il welcome party, quindi con la band e presentazione degli insegnanti di questa danza che si chiama Boogie Woogie e Swing Dance. E ci saranno vari spettacoli. Il sabato sera un'altra band che è, diciamo, la più conosciuta a livello europeo e anche a livello italiano, e si chiamano i Jumping Up, direttamente da Palermo. E ci saranno appunto le esibizioni degli insegnanti, che avremo una coppia norvegese, una coppia austriaca e una coppia italiana, e presenteranno i loro spettacoli. Più ci sarà tanta social dance, tanti momenti di condivisione, e durante il giorno invece le lezioni con questi insegnanti con cui collaboriamo. Quindi è una cosa che dura tutto il giorno, anche la sera, insomma è all day. Sì, sì, si inizia la mattina alle 10 con le lezioni fino alle 14 circa, per poi pausa pranzo, classica, ma poi dopo si continua con feste in piscina o DJ che appunto mettono sia vinili che musiche online e tutto il resto, e si può ballare, si può ascoltare, si può prendere il sole, ci si può divertire e farsi un aperitivo a ritmo di rock and roll. E farsi anche il bagno. E farsi anche il bagno. Giusto, perché c'è la piscina. Ma una cosa, quindi, si può presentare sul momento, si prenota, si va a coppie, come funziona? Allora, essendo un festival è necessario prenotare le lezioni e il dance camp, quindi le iscrizioni chiuderanno la settimana prima, quindi attorno al 25, e già ad oggi sono disponibili i biglietti online sul sito www.rockinsummerfest.it. Ci sono tutti i piani delle lezioni, quindi uno può decidere quale giornata scegliere, quale ticket scegliere, se un full pack, un medium o solo le serate per divertimento. Mentre per la serata singola uno può venire anche lì quel giorno lì e iscriversi direttamente all'ingresso. Ok. E sì, quindi, sì. Ma tu sei organizzatore o sei anche ballerino? Allora, questo festival è nato un po' come sfida, cercherò di farlo il più breve possibile. Noi siamo nati come ballerini, nel senso che io e la mia partner Alexia abbiamo iniziato per fare le gare, per passione per questo genere musicale, e dopodiché siamo andati a insegnare all'estero, e nel 2024 avremo anche delle date in Messico e quindi fuori dall'Europa, e anche i nostri coetanei, i nostri collaboratori, i nostri rivali hanno iniziato a organizzare il loro festival, e quindi appena l'abbiamo visto abbiamo detto: ma perché noi dobbiamo sempre andare a quello degli altri, non ce ne facciamo uno noi come diciamo noi? E quindi abbiamo detto: organizziamo il nostro e lo facciamo con tutto quello che vediamo, il meglio che vediamo in giro per l'Europa, cerchiamo di portarcela a casa. E per adesso infatti vi stanno dando ragione, perché avete iniziato con un giorno e siete passati a 3 giorni, quindi vuol dire che la richiesta c'è. Sì, sì, siamo anche partiti appunto il primo anno, eravamo una sessantina, tutti comunque allievi nostri della zona di Bologna, Modena, così dintorni. E poi dal secondo anno hanno iniziato a espandersi fino a Milano, Firenze, Roma, e già dall'anno scorso, ma quest'anno c'è stata la super riconferma, e abbiamo un sacco di iscritti da Stoccolma, Norvegia, Danimarca, Olanda, Francia, Austria, Germania. Come al solito gli italiani arriveranno quando sarà già un festival affermato. Quindi esatto. Il fatto che tutti gli stranieri ci diano questo consenso a noi fa molto piacere, ecco. Ma ti dirò, anche a noi, perché comunque portare del ballo, dell'allegria, anche dello stile, perché insomma è una cosa che è piacevole sia da praticare ma anche da vedere. Quindi vi sosteniamo con tutto l'affetto possibile. Guarda, sicuramente l'abbiamo già detto, ma ti chiedo di ripetere solo il sito per le informazioni, per le iscrizioni: www.rockinsummerfest.it. Si può trovare tutto, dalle iscrizioni a tutte le informazioni per anche hotel convenzionati e location. Grazie Dimitri. Grazie a voi.